in esclusiva ogni giovedì e venerdì con Il Sole 24 Ore. Solo giovedì 28 in edicola, guida e mappa di Londra più frasario d'inglese a soli 50 centesimi. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Benvenuti a Indovina chi viene a cena. Stasera cinema, pizza e datteri, che è un proposito ma anche un nuovo film che è al cinema dal 28 di maggio nelle sale italiane. Allora sentiamo proprio uno spunto tratto dal trailer per capire qualcosa di più di questo film e poi vi presenterò anche gli ospiti. Maestro, la comunità islamica di Venezia è venuta a darti il benvenuto. Chi ha chiuso moschea? Americani? Americani no. Sionisti? No, per carità. Chi ha chiuso moschea? Una donna. Io da qui non me ne vado, chiara? E l'ha trasformata in un negozio parrocchiere. Un negozio unisex? Uomini e donne insieme. Non ne ho mai visto. Che possiamo fare? Portiamo tanti sassi per tutti. Una lapidazione. Ma fantastico. Aspetta, oddio, no. Adesso dobbiamo diventare tutti più leggeri. Mangio un dattero al giorno e basta. Dobbiamo punirla, cancellarla per sempre dalla faccia della terra, lo capisci o no? Fratello Mustafa, ho capito cosa dobbiamo fare. Sei sicuro? Insomma, atmosfera divertente davvero, quasi da commedia all'italiana per questo film con uno strepitoso, tra l'altro, Giuseppe Battiston. Abbiamo in diretta con noi il regista Fariborz Kamkari. Buonasera. Buonasera a tutti. Salam aleikum, shawbash. E abbiamo anche uno degli interpreti, uno degli attori, Mehdi Meksar. Buonasera, grazie. Buonasera e benvenuto. Grazie, allora, cerchiamo di presentarvi innanzitutto. Fariborz Kamkari è un regista curdo iraniano, è da 5 anni in Italia e ha vinto anche dei premi per dei suoi film e si è dedicato proprio a questa commedia e poi sentiremo da lui qual è il sapore di questa commedia influenzata proprio anche dalla commedia italiana, ma è una commedia multietnica in questo caso, no Fariborz? Sì, assolutamente, è un film che cerca di raccontare un po' migrazione, disagi e problemi di una piccola comunità islamica che vive in Italia. Non a caso a Venezia. Non a caso a Venezia, poi possiamo anche parlare di questo, ma in un chiave di ironia e autoironia, perché penso il miglior modo di raccontare un tema così caldo, delicata e drammatica è la commedia, perché ci permette di guardare un po' con la distanza Ecco, senza panico. Allora, senza svelare troppo del film che vi andrete a vedere, la trama è quella di una pacifica comunità musulmana di Venezia sfrattata dalla sua moschea da un'avvenente parrucchiera che la trasforma in un salone di bellezza. Allora viene chiamato in soccorso un giovane inesperto imam afghano per riprendersi il luogo di culto. E ci sono tutti questi goffi tentativi che falliscono comicamente. Alla fine vedrete che anche gli stereotipi si ribaltano, no, Mehdi? Sì, sì, infatti con il mio personaggio che si chiama Saladino, il giovane imam, infatti quando arriva lui pensa di poter trovare le soluzioni facilmente, invece con le differenze tra Oriente e Occidente sarà molto difficile e ci saranno tutti questi tentativi goffi e molto divertenti. Infatti. Un giovane imam molto quasi fondamentalista, molto un po' rigido nel suo credo. Sì, quando arriva è un po' rigido, infatti è stato, come dire, gli hanno lavato il cervello, diciamo, nel suo paese in Afghanistan, gli hanno lavato il cervello e poi quando arriva vede la bellezza di Venezia e si apre al mondo, si costruisce anche in questa Venezia. Fariborz, una laurea in regia, il film I fiori di Kirkuk nel 2010, c'è stato anche un premio per miglior regista al Festival del Cinema Indipendente di Bruxelles. Come mai in Italia e come mai questo film? Beh, Italia perché io sono un amante di Italia tramite il suo cinema e la cultura. Ero un bambino di guerra in Iran e mi hanno salvato in qualche modo film italiani, cinema italiano, mi hanno aperto una finestra per esprimermi, di avere una voce a raccontare la mia vita. E questo film perché mi racconta un po', racconta la mia vita quotidiana come un musulmano che vive in Occidente. Lei è arrivato dove? In Italia dove 5 anni fa? A Roma, io abito a Roma. Ma sono in contatto comunque con la comunità islamica che penso che la stramaggioranza di queste comunità sono persone perfettamente integrate in questa cultura, in questo paese, hanno rispetto, ma molto spesso vengono presi in ostaggio da una piccolissima minoranza degli integralisti, di aggressivi, persone che molto spesso parlano in voce di nome del culto della comunità. E questo film è un tentativo di dare una voce anche alla maggioranza di persone che parlano, che pensano come me e vivono in Occidente tranquillamente. Abbiamo fatto sentire una parte della colonna sonora del film, i suoni multietnici dell'orchestra di Piazza Vittorio, una colonna sonora deliziosa. Mehdi Mekhsar, questa canzone in particolare parla proprio dell'amore, sì, di come trasforma le cose. Sì, sì, sì, questa è una canzone bellissima che ha fatto l'orchestra di Piazza Vittorio e... ed è quindi questa orchestra che conosciamo tutti, questa orchestra molto, cioè, mista, piena di persone da tutte le parti del mondo, ed è quello che dicevo anche a Fariborz ieri. Per me questo film, e con la scelta anche dell'orchestra, è un vero e proprio simbolo anche di una nuova generazione di artisti pacifici, stranieri, che vengono in Italia e vogliono arricchire, costruire di maniera pacifica tramite l'arte. Lei è molto giovane, no? Quanti anni ha? Io ho 20 anni, sì, sono molto giovane. E ha delle origini che sono un mix di culture, sì, no? Sì, sì, infatti sono nato in Italia, quindi sono italiano, nazionalità italiana, di origini marocchine e adesso vivo a Parigi con la mia famiglia. Sono cresciuto a Treviso e ho fatto 15 anni della mia vita a Treviso. E come si è trovato? Tutto bene, perché alla fine quando ci si dà la possibilità di andare verso l'altro ci si trova bene. Io sinceramente sono stato ben accolto dal nord, quindi penso sia possibile, ed anche il film lo prova, che è possibile venire a Venezia, perché alla fine io abitavo vicino a Venezia, e trovare un'apertura da parte del popolo veneziano e dell'Italia. Ci fermiamo brevemente, torniamo a parlare di pizza e datteri subito dopo. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. بتصدق لما قالونا اللي قدرت في لحظة أخونا اللي بتصدق لما قالونا اللي قدرت في لحظة أخونا أبعد عنك وهران وتشوف سهران في عيونك ليه ليه ويه ليه ويه ليه اللي بتصدق ليه وليه ليه ليه ويه ليه وليه اللي بتصدق ليه وليه اللي بتصدق لما قالونا اللي قدرت في لحظة أخونا. Siamo questa sera con il regista del film Pizza e Datteri, Fariborz Kamkari, e con uno degli attori, Mehdi Meskar, a parlare di questo film, una commedia all'italiana e alla multietnica, no Fariborz? Assolutamente, io stavo sviluppando la sceneggiatura e pensavo in che modo si può raccontare questa storia. Veramente mi è venuto in mente tanti film capolavori del cinema italiano, della commedia italiana, cercavo di trovare un chiaro simile. La maestanza dei grandi registi italiani che erano capaci di toccare argomenti molto importanti, molto delicati, ma con un chiaro di lettura ironica. A quali film si è ispirato? Divorzio all'italiano è il primo film che veramente mi ha ispirato tanto, che raccontava un periodo storico in Italia su un argomento molto importante, ma con un'ironia che invitava l'espettatore di pensare con la distanza, con la giusta distanza, ecco. Come mai Venezia? Perché ha deciso di ambientarla a Venezia? Sicuramente il paesaggio di Venezia con i suoi minareti, le cupole, i mosaici è in effetti un incrocio tra Oriente e Occidente, per questo? Esattamente, abbiamo cercato, anche nel film si vede che è una Venezia un po' insolita, una Venezia orientale, una Venezia che somiglia un po' anche a Istanbul, un po' a Casablanca, un po' a Marrakesh. C'è questo incrocio anche nell'architettura veneziana, e questo era perfetto esempio del film. Sembra un set ideale dove si incrociano questo misto di culture a Venezia, una città estremamente bella che rendeva anche credibile la trasformazione di questo giovane imam che viene dall'Afghanistan. Il mare e la cultura del mare, cultura mediterranea, ha un grande impatto su di lui e lo aiuta ad aprire sul mondo, avere una nuova visione sulla sua fede anche. Devo dire che la Venezia che si vede non è la Venezia bomboniera, affascinante, non è solo questo, è anche una Venezia appunto del salone di parrucchiera della protagonista Zara, della protagonista femminile, è una Venezia di palazzi molto belli, sì, ma anche di proletariato, c'è un po' di tutto, ci sono dei contrappunti anche di voci dialettali affascinanti, no? Sì, abbiamo cercato di ricostruire un mosaico, come nella verità, nella realtà veneziana, che uno viaggia un po', se esce dai, diciamo, sentieri più turistici, e si incontra una Venezia molto diversa, molto più vera e meno turistica, e questo era il nostro obiettivo. Mehdi Meskhar, lei fa appunto la parte di questo Saladino, il giovanissimo imam, ed è all'inizio del film in effetti racchiuso, sembra uno stereotipo dell'immigrato musulmano molto radicale, e poi l'amore lo conquista. La donna invece, Zara, il personaggio femminile, è la figura di una donna molto indipendente, è la vera straniera della comunità musulmana di Venezia, quasi più straniera di Saladino. Zara è una donna musulmana. In realtà quel che prova è che si può essere musulmani a diversi gradi, ma anche in maniera diversa. Ognuno ha la sua maniera di vedere la sua religione. Zara ha scelto di vederla in questa maniera. Maud, giustamente ieri, che recita Zara, mi diceva: per lei Zara ha la religione della libertà, quindi lei ha scelto di vederla così. E poi ci sono altri personaggi che danno un grande pannello della religione musulmana, delle maniere di vivere anche la loro religione. إني درتي في لحظة خونك أبعد عنك وأمرك وانسى شوف سهرك في عيونك ليلك ويليك ليلك تسبيراتي من المسألة للمئة انكونتري بركي بريما دي scrivere la sceneggiatura, ho fatto anche qualche ricerca. A Venezia sono andata anche a incontrare comunità veneziana dei musulmani, e veramente c'è una grande forza tra le donne musulmane, che è anche un fatto storico vero negli ultimi anni nel mondo islamico, che le donne cercano di cambiare, sono un grande forza per cambiamento, per riforme e per rinnovamento della società. E automaticamente anche in queste piccole comunità succede la stessa cosa. Molto spesso le donne sono quelle che sono velocemente, diciamo, adattano molto più veloci, imparano le lingue, trovano un lavoro, mentre l'uomo ancora un po' sta cercando di trovarsi, fare un'idea di nuovo, della nuova società. Le donne sono molto più veloci. Siamo ispirati veramente della verità, di quello che succede veramente nella comunità islamica in Italia. Fermé dans mon cœur, personne ne veut savoir ma vérité. Je suis toujours une petite pierre bien fixée. La musica del film, lo dicevamo, è dell'orchestra di Piazza Vittorio. Ci piace ricordare, è un'orchestra nata a Roma, risultato dell'incontro di alcuni musicisti europei con musicisti immigrati da vari paesi del Mediterraneo, del Medio Oriente, fino all'India. Una scelta davvero ideale per un film che è multiculturale e che anche nel linguaggio, come dicevamo prima, mixa diversi lingue: arabo, turco, farsi, veneziano, curdo, urdu. È una mescolanza voluta, no? Sì, ma la cosa bella è che, ecco, questa comunità islamica con questa etichetta è costruita da un mosaico delle etnie, di lingue diverse, ma che viene unito con la lingua italiana. cioè due immigrati di due parti diverse del mondo, un marocchino e un iracheno, parlano in lingua italiana, un pakistano e un iraniano parlano in lingua italiana, e questa era molto bella per me, e nel film si vede anche questo e si riflette anche nel titolo Pizza e Dateric, dove pizza non è la nostra pizza, ma appunto è un pane, no? Sì, sì, pizza, poi è stato scritto con T, come viene pronunciato da Saladino, pizza, lui veramente pronunciava pizza perché aveva difficoltà di pronunciare T come maggior parte degli arabi. Sì, dove è un piatto, diciamo, un po' simbolico, anche un desiderio, è una speranza, c'è cioè una speranza che si incontrano, perché per noi i datteri sono come, è una cosa che consumiamo tutti i giorni. Ecco, un incontro tra le due culture che si mostra in questo piatto immaginario. Mi viene in mente la scena dove Giuseppe Battistone, uno dei personaggi, dice: stiamo leggeri, un dattero al giorno. Devo dire, Battistone è un personaggio molto divertente in questo film. Come e perché l'avete scelto, questo italiano musulmano? Era la scelta più difficile, perché era un personaggio italiano, il film comunque è un film italiano in tutti i sensi, e per me era una scelta molto importante di trovare l'attore adatto che può interpretare questo personaggio italiano convertito all'Islam, che poi è il, diciamo, il musulmano più integralista del film. E ho subito pensato al primi, diciamo, stagione di sceneggiatura, ho avuto la fortuna di conoscere Giuseppe Battistone in persona, le ho stato coinvolto nella scrittura della sceneggiatura, lui leggeva e dava consigli per renderlo sempre più credibile uno spettatore italiano, ecco, è stata una bellissima collaborazione. Mehdi Meskhar, si parla in questo film di pregiudizi, che un po' è anche il tema della nostra trasmissione, no? L'identità, il pregiudizio. Qual è il pregiudizio che l'ha colpita nella sua vita e che le ha dato più fastidio, che l'ha turbata di più? Sicuramente il fatto di essere straniero, perché non lo scegli di nascere straniero o no, perché io sono nato in Italia e mi sento anche italiano, anche vivendo a Parigi mi sento italiano, e quando la gente mi dice di dove sei, dico dall'Italia, non dico del Marocco, anche se assumo totalmente le mie origini marocchine. E sicuramente è questa la cosa che forse era più, tra virgolette, difficile da sopportare, che perché sei straniero ti si giudica senza conoscerti, ed è quello che prova il film, è che bisogna conoscere prima di giudicare, perché Saladino, per esempio, quando arriva subito ha paura e dice dov'è la Satana, dov'è lei, e lei ha paura, mentre invece appena la conosce c'è questo fascino alla fine di questo, tra virgolette, diverso. E quindi è questo, bisogna conoscere per poter realmente giudicare. Che è un po' il tema del nostro film, noi ne parliamo anche quando parliamo di cucina, conoscere i piatti prima e assaggiarli prima di giudicare. Fariborz Kamkhari, a proposito di pregiudizio, ci sono stati dei pregiudizi quando ha scritto e cercato un produttore, un finanziamento per questo film nei suoi confronti, oppure è stata una ricerca facile? Io ho la fortuna di lavorare con una squadra che già abbiamo prodotto altri film. I produttori c'è anche la Regione Veneto, è curioso. Sì. Sembrava il momento giusto, il momento storico giusto di fare questo progetto, invitare tutti, di dialogare. Anche ovviamente Papa ha sottolineato questo aspetto di dialogare. Ecco, il film invita tutti a guardarsi negli occhi e cercare di comunicare invece di paura e cadere nei pregiudizi. Ma il presidente della Regione Veneto, Zaia, lo sa che è fra i produttori finanziatori di questo film? Sì, abbiamo avuto sostegno della Regione Veneto, abbiamo avuto sostegno del Comune di Venezia, abbiamo avuto sostegno del Ministro dei Beni Culturali e anche Rai Cinema. E quindi speriamo che piacciono anche a loro, è un mosaico anche in questo caso. Sì, sì, come nella produzione del film, io ho avuto collaboratori da tutte parti d'Italia, è un grande parte del nostro cast, ma attori di origine straniera. È stato bellissimo, un'esperienza veramente molto ricca per tutti noi. Faribolz, lei pensa di rimanere in Italia? Sì, finché posso fare film. Io sono un immigrato, diciamo, culturale. Sì, penso che resterò ancora a Roma, in Italia. Grazie, grazie a Faribolz Kamkari, regista del film Pizza e Datteri, e a Mehdi Mescar, uno degli attori di questo film. Grazie, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Buona serata. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Prima di chiudere la nostra consueta rubrica sui libri. E allora questa sera vi proponiamo un libro da cui è stato tratto un film proprio in questi giorni, in queste settimane nei cinema italiani. Il film è Samba, e di questo film esiste ovviamente il libro da cui è stato tratto, ed è Samba pour la France, un libro di Rizzoli Editore, che racconta la storia di un immigrato in Francia che è proprio a un passo dall'avere la carta di soggiorno, o purtroppo viene arrestato e quindi deve ricominciare a correre da irregolare clandestino nel tentativo di superare gli atti burocratici che lo portano poi a essere un regolare. Ed è tutto per questa settimana. Io ringrazio in regia Paolo Corleoni, tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo sabato prossimo sempre su queste frequenze. Buona serata da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of love.